e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e benvenuti. Il tema di questa puntata, della prima parte di Cuore Denari, nasce da una riflessione che vorremmo condividere con voi. In questo inizio d'anno le donne hanno fatto notizie in più occasioni, ma spesso come parte lesa, aggredita, vulnerabile, dai fatti di Colonia fino al caso di bullismo nei confronti della ragazzina di Pordenone. Proprio da questo oggi parliamo e partiamo. Il bullismo ci spaventa tutti, forse qualcuno ne è stato vittima. E quindi ci piacerebbe aprire i nostri microfoni per ascoltare le vostre storie, ma anche raccogliere i dubbi, le paure dei genitori, per riflettere su cosa significa oggi proteggere un figlio, ancora di più una figlia, perché forse le ragazze sono più a rischio. Per una ragazza è più facile sentirsi impotente, aggredita, non amata. È davvero così? E perché succede? Anche i problemi di integrazione culturale dei giovanissimi sono più difficili da superare se sei una ragazza. Ne parleremo oggi nel corso della trasmissione con un grande amico di Cuore Denari, e qua con noi Alberto Pellai, medico, ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta dell'età evolutiva, nonché scrittore di numerosi libri e manuali. Ciao Alberto, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno Alberto, benvenuto anche da parte mia. E io vi anticipo quello che faremo invece per la pagina di Denari. Dobbiamo restare anche oggi sui temi di stretta attualità. Come avrete sentito, la settimana si è aperta nel peggiore dei modi per la Borsa di Milano. Al centro di questo nuovo ciclone troviamo di nuovo il settore bancario. Dopo le vicende legate al decreto salva banche di fine novembre, gli istituti italiani tornano a conquistare loro malgrado le prime pagine dei giornali, rendendosi protagonisti di un vero e proprio crollo in borsa che, peraltro, vi preannuncio, sta continuando anche oggi. Dopo un tentativo di rimbalzo in avvio di seduta, c'è un nuovo rovescio per tutti i titoli del settore bancario, in particolar modo per Monte dei Paschi, la Popolare dell'Emilia Romagna, il Banco Popolare e la Popolare di Milano. Monte dei Paschi è ferma per eccesso di ribasso, sta perdendo l'8%, molte le sospensioni anche di ieri. Oggi allora dedicheremo un approfondimento in diretta a queste notizie, cerchiamo di capire cosa sta succedendo insieme ai nostri esperti, risponderemo alle vostre domande e soprattutto cercheremo di capire se c'è motivo di preoccuparsi. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione per intervenire su tutti i temi di Cuore Denari. Appartenere al genere femminile non è meglio né peggio di nulla, proprio come appartenere al genere maschile. Come si nasce e si cresce maschi, così si nasce e si cresce femmine. La verità, ciò che siamo davvero, non è fuori di noi, è dentro di noi. È lì che sta il segreto di tutto, è lì che nasce e germoglia la nostra vera bellezza. Per te un augurio che è anche un invito, un progetto, una realtà. Diventa chi sei e, se puoi, regala la tua vera bellezza al mondo. Quello che avete appena ascoltato è un estratto dal nuovo libro che Alberto Pellai ha appena pubblicato per De Agostini, si intitola Girl Revolution, diventa ciò che sei, che è il messaggio che genitori, scuole, società tutta dovrebbero sostenere nell'educazione di genere rivolta alle ragazze. Siete d'accordo? Ma quanto ancora siamo lontani da questo obiettivo? Forse abbiamo fatto dei passi indietro tornando al passato, come ci rivela anche il caso di cronaca di ieri successo a Pordenone. Quali sono gli ostacoli per una ragazza che sta crescendo a diventare davvero ciò che vuole essere? Allora il nostro numero verde è già a vostra disposizione, un numero per raccogliere le vostre riflessioni di genitori. Oggi parliamo anche del disagio, di essere vittima, parliamo di bullismo. Vorremmo invitarvi ad aprire un po' anche il vostro cuore, quindi chiamateci se state crescendo un figlio, se state crescendo una figlia e vi siete magari trovati in una condizione di disagio perché non avete capito magari il suo silenzio, vi siete sentiti impotenti di fronte alle sue difficoltà o l'avete vissute voi in prima persona. Alberto Pellai è qua a nostra disposizione, contattabile al nostro numero verde all'800 24 00 24. Alberto, parliamo di bullismo, che è un tema tra l'altro molto presente anche nel tuo nuovo libro per le ragazze. Ci spieghi che cos'è e che cosa è successo a questo fenomeno dopo che i nostri figli sono diventati nativi digitali? Ma il bullismo si verifica quando qualcuno sistematicamente attacca, denigra, umilia, a volte fa male anche fisicamente ad una persona. Quindi non è un caso sporadico, ma è una serie di fenomeni continuati che fanno sì che la persona che viene aggredita e umiliata si senta addosso il profilo della vittima, e da quel momento in poi comincia ad avere, per esempio, paura, un senso di impotenza, e quindi c'è sempre qualcuno che attacca, qualcuno che subisce, ma poi intorno c'è un mondo che guarda. Effettivamente il bullo non farebbe mai le cose che sta facendo se non avesse degli spettatori che osservano e che gli conferiscono il potere del suo essere bullo, che chiaramente è un potere disfunzionale, che fa molto male, che congela la possibilità di costruire relazioni vere, autentiche e protettive all'interno di un gruppo classe. E purtroppo questo è un fenomeno che è particolarmente frequente proprio in preadolescenza, come ci racconta anche il caso di cronaca, perché una delle sfide evolutive fondamentali in preadolescenza è sentire di appartenere al gruppo dei pari, e quindi fenomeni di inclusione e di esclusione, sei dentro, sei fuori, ci piaci, sei orribile. Ecco, tutto questo modo di far sentire uno dentro o fuori amato oppure rifiutato genera poi dei vissuti di angoscia molto molto profondi, e spesso i ragazzi si perdono dentro a questa sensazione di impotenza, di dolore, di solitudine che hanno, non riescono a chiedere aiuto, e dentro di loro questa cosa diventa un problema irrisolvibile. 800 24 00 24, un numero verde aperto a tutti i genitori all'ascolto, ma anche a tutti coloro che vogliono confrontarsi con noi su questo tema. Siamo diventati adulti, magari abbiamo superato dei momenti difficili nella preadolescenza, nell'adolescenza, siamo state vittime di un bullo, o forse eravamo un po' noi dei bulletti. Alberto, il tuo è un libro tutto al femminile, il caso di cronaca riguarda una ragazza, come abbiamo detto, preadolescente. Le ragazze quindi sono più vulnerabili. Che specificità ha questo fenomeno quando viene declinato al femminile? Ma nei criteri di inclusione e di esclusione oggi il come appari, il come sembri, il tuo lato esteriore, proprio l'essere belli o l'essere brutti, detto in parole molto, molto piatte, ha un peso rilevantissimo. Se esteticamente, esteriormente non corrispondi a un canone o a uno standard che viene definito come quello che facilita l'inclusione nel gruppo di quelli amati, rischi proprio di essere escluso. Se non sei vestito esattamente come ti dicono che dovresti essere per essere considerato popolare, oggi davvero la sofferenza in preadolescenza non è più legata al fatto che uno è arrabbiato con gli adulti che vogliono dargli regole e confini. La sofferenza più grande per un preadolescente è provare vergogna, perché lo sguardo dell'altro ti fa sentire come una persona che sta ai lati, ai margini, una persona che non voglio che entri all'interno del mio gruppo di appartenenza. Tra le ragazze questo è molto potente, è stato molto studiato anche da tanti psicologi e sociologi. La chiamano un po' la sindrome dell'ape regina, cioè spesso in una classe arriva quella che le ha tutte giuste, no? E che in realtà fa molta attenzione a definire in modo quasi implicito chi è dentro e chi è fuori, stabilisce dei canoni e degli standard di popolarità ai quali fondamentalmente poi molte ragazze cercano di ispirarsi e ad adeguarsi, e quelle che non ce la fanno, quelle che per esempio hanno un corpo fatto in modo diverso, quelle che appartengono a un'altra etnia, quelle che hanno un'altra programmazione, hanno questo vissuto di esclusione, cioè vengono definite come coloro che devono stare ai margini. Tra queste poi ci sono quelle che invece lo fanno, lo vivono, sentono di essere originali, non si sentono escluse, si sentono loro stesse proprio perché non aderiscono a un canone, quindi sono molto resilienti. Altre invece si trovano completamente in balia di un vissuto di impotenza, appunto di solitudine, di isolamento, e pensano di non valere niente. La cosa poi che è davvero terribile del bullismo è che tu impari attraverso il bullismo che non hai nessun valore, che sei una persona che non piace, e questa cosa, questa credenza ti entra dentro, un po' condiziona tutto il tuo percorso di crescita. Allora, hai descritto la sindrome dell'ape regina. Dato che un ascoltatore ci suggerisce con forza che il bullismo è molto più maschile, decliniamolo anche al maschile. Per, Ok, per i maschi invece in generale il tema non è tanto del come appari, ma di chi è il più forte qua, cioè molto più legato a un tema di potere concreto che uno si va a prendere all'interno di un gruppo e quindi stabilisce delle regole. In questo gruppo si fa quello che dico io e tutti si devono adattare. Allora i maschi in molti casi fanno delle operazioni del tipo: mi devi dare la tua merenda, mi devi dare 50 centesimi, devi camminare rasente al muro perché al centro del corridoio. Ecco, queste che sono delle modalità con cui qualcuno arriva e dice: io sono il capobranco, tutti dovranno adattarsi a quello che io dico che deve essere fatto qua dentro, e implicitamente perciò quello che succede all'interno dinamiche del branco è fortemente in funzione del rispetto di regole spesso disfunzionali che il bullo definisce per tutti. Se noi entrassimo nelle teste di tutti quelli che si adattano, nessuno di loro in realtà ama molto questa cosa, molti la patiscono, ma nessuno sente invece di poter costruire un gruppo, di poter seguire l'idea che l'unione fa la forza. Noi siamo 20, lui è uno. Basterebbe semplicemente aumentare i processi di solidarietà e cooperazione all'interno del gruppo, far sentire che il gruppo diventa una squadra, e a quel punto il potere del bullo non vale, certo, più niente. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo insieme con Diana da Modena e Roberto da Milano. A tra poco. Cuore e denari. Non confondere mai l'essere amata con l'essere scelta. Non giustificare mai un atto di prepotenza o addirittura di violenza con la frase: fa così perché mi ama. Non inorgoglirti mai perché lui ti dimostra una gelosia eccessiva, a volte addirittura patologica. È un'ossessione che potrebbe costarti molto cara. Non accettare mai ricatti e compromessi in amore, e tantomeno nel sesso. Significa trasformarsi in merce che può essere barattata, comprata e venduta, diventare oggetto di mercato. Non cercare di trattenere qualcuno che non ti mette più al centro del suo cuore. Sarebbe solo un accanimento terapeutico che rischia di trasformarti in un essere patetico, senza rispetto di sé, disposto a tutto per elemosinare briciole di un amore che non esiste più. Ma soprattutto in amore, impara tu per prima ad avere un sacro rispetto di te stessa, sempre e comunque. Perché se ti rispetti, anche chi ti sta accanto ti rispetterà. Siamo tornati insieme in questa prima parte di Cuore Denari, parliamo di bullismo, ma parliamo anche quindi di educazione, di relazione, del sostegno che i genitori dovrebbero dare. Il brano che abbiamo appena ascoltato è un estratto dal libro di Alberto Pellai, che è stato appena pubblicato per la De Agostini, si intitola Girl Revolution, e ci è sembrato un libro molto interessante da cui partire per commentare i fatti di cronaca che hanno visto una ragazzina di Pordenone vittima di bullismo, al punto tale, no, con un tatuaggio emotivo, come lo definisci tu, così profondo da cercare appunto il suicidio. Per fortuna la ragazzina sta bene, ma questo fatto di cronaca ci ha spinto a riflettere insieme a voi, insieme a Alberto Pellai, su quello che potrebbe essere il ruolo dei genitori. Soprattutto spesso, come scrive Gramellini sulla Stampa oggi, il pianeta dell'adolescenza per i genitori è qualche cosa, no, di inarrivabile, anche se l'abbiamo vissuto, e molti genitori non riescono a cogliere i segnali che i loro figli mandano quando vivono questo momento di forte disagio. L'abbiamo declinato al femminile, ci stiamo interrogando se le ragazzine sono più esposte a questo tipo di aggressioni. I dati anche ci suggeriscono, no, un bullismo con un profilo maschile e uno con un profilo femminile. Alberto li ha delineati. Alberto. Sì, devo dire che effettivamente le nostre figlie in questo momento hanno addosso tantissima pressione per cercare di essere non realmente quello che vogliono essere, ma quello che tutto il loro sistema di relazione, ma anche tutta la loro cultura popolare, le spinge a diventare. Cioè devi essere non come sei, ma come è bene che tu sia, in modo che tu acquisisci popolarità. Il tema dell'essere popolare è un tema cruciale nel bullismo, perché le vittime di bullismo sono proprio le impopolari, quelle che vengono un po' additate quando passano, quelle che hanno dentro di loro e in realtà addosso a loro, perché si vede, delle caratteristiche che le rende immediatamente additabili col dito. Questo ha molto a che fare anche con la preadolescenza. Tutti i preadolescenti sono molto insicuri e non sanno davvero chi saranno, come diventeranno, se trovano qualcosa di differente che si può indicare col dito, in automatico loro si sentono protetti, stanno attaccando qualcun altro e in automatico si mettono in una zona di autodifesa. Su questo gli adulti, in particolare gli insegnanti, dovrebbero davvero lavorare tanto. Ci scrive Anna: 30 anni fa, durante il periodo delle medie, sono stata presa in giro dai compagni in modo cattivo, crudo, insulso e sistematico. Non l'ho mai dimenticato e ne soffro al pensiero, ma a quei tempi nessuno aveva ancora coniato il termine bullismo. Leggo questo messaggio di Anna per sottolineare che quello di cui stiamo parlando purtroppo non è un fenomeno nuovo, ma negli ultimi anni abbiamo preso consapevolezza di questo, per rispondere all'ascoltatore che ci scrive: state scoprendo l'acqua calda. Forse a forza di dire che è l'acqua calda non ce ne occupiamo e ci scottiamo, quindi direi che una riflessione su questo fatto di cronaca può aiutare tutti, genitori e non solo. Sì, Alberto. Anche perché poi rimaniamo lì attoniti e la domanda che ci facciamo è: cosa si sarebbe potuto fare prima, cosa avremmo dovuto fare per evitarlo? Ecco, mettere in piedi un sistema di prevenzione, avere dentro di noi come genitori anche un progetto educativo che aiuta i figli a non sentirsi vittime impotenti o in balia di situazioni così terribili. Ci sono infatti proprio anche dei genitori che stanno chiedendo allora noi che cosa dobbiamo possiamo fare per prevenire questa infatti situazione. Volevo proprio chiedere ad Alberto se ci sono dei fattori di rischio nell'ambiente in cui cresce un figlio, legati alla famiglia ma non solo, che lo rendono particolarmente vulnerabile nei confronti di questo fenomeno. Proviamo a declinarlo sia per la vittima che per il bullo e poi andiamo agli ascoltatori con consigli pratici. Ma direi il messaggio che deve ricevere un figlio dai genitori è che in qualsiasi situazione tu ti senti in difficoltà, io sono al tuo fianco. In realtà in moltissimi casi i figli vengono lasciati soli. Provo a dare un esempio tipico per i maschi. Se il maschio prova a dire sono stato aggredito, attaccato, l'unica risposta che tante volte gli arriva è: devi imparare a difendersi, altrimenti sei una femminuccia, che spesso non gli dà nessuna competenza reale. Se le ragazze si sentono magari affaticate per come si presentano con il loro corpo quando si guardano allo specchio, che è proprio un'insicurezza profonda che hanno, le mamme magari fanno molta fatica, dicono: ma tu sei bellissima, appunto, e non entrano magari un po' in una zona dove possiamo proprio aiutare le figlie a vedere con più criticità. Bisogna fare un po' di lavoro. Tante volte le stesse figlie vedono noi genitori completamente travolti dagli stessi fenomeni, ossessionati dal nostro corpo, dalla nostra bellezza, se penso alle ragazze, e quindi in automatico, se qualcosa che li spaventa è qualcosa che spaventa anche noi, non siamo più considerati dei riferimenti significativi. In generale direi, in famiglia, tenere apertissimo il dialogo, tenere il momento del pasto, che è quello in cui tornano da scuola, come un momento dove siamo lì tutti insieme, connessi realmente tra di noi, e dove le televisioni sono spente. Probabilmente molti di noi non sono abituati, all'inizio si farà tantissimo silenzio. Sentire quel silenzio poi ci darà la competenza per uscire da lì e cominciare a parlare delle nostre vite. Noi siamo iperstimolati ma sconnessi. I nostri figli, pur avendo dei genitori spesso al loro fianco, sono davvero spesso in silenzio, silenziosi, perché sono avvolti e travolti dal silenzio degli adulti. Andiamo a Diana, che ci chiama da Modena. Buongiorno Diana, benvenuta e grazie per essere intervenuta a Cuore Denari. Buongiorno Nicoletta. Grazie a voi che mi avete chiamato. Ho 46 anni, sono cittadina italiana ma nata in Moldavia. Sì. Tempo fa, quando ero adolescente io e avevamo i tempi del socialismo, quindi un paio di jeans aveva, non so, uno da 100, eravamo tutti uguali, vestiti uguali, non c'era internet, in TV facevano vedere soltanto il Partito Comunista, quindi noi del bullismo non sapevamo neanche cos'era, perché era... più o meno eravamo tutti uguali, vestiti, informazioni avevamo in stesso modo, si leggevano dei libri buoni, non so. Era così, i tempi sono cambiati e quello che è successo a quella povera ragazza abbiamo colpa tutti, tutta la società, scuola, genitori, tutti quanti abbiamo colpa, perché probabilmente non siamo riusciti e non riusciamo tutt'oggi a costruire una società sana. TV, internet. In internet loro vanno. I nostri figli ne stanno pagando le conseguenze. Alberto, è una riflessione molto cruda quella che ci fa Diana, no? Siamo tutti un po' colpevoli di fronte a questi, là dove c'è una violenza, c'è un'aggressione. Partirei però dalla frase che dice Diana: se siamo tutti uguali, allora nessuno sarà vittima di bullismo. Io vi inviterei a pensare che noi invece dobbiamo proprio educare alla diversità. Dobbiamo avere il diritto di essere tutti differenti, ognuno si deve sentire unico, speciale, accettato nel suo essere se stesso, non nel suo essere come gli altri, ma nell'essere come lui. E questo secondo me è proprio un'educazione faticosissima in questo momento. Tollerare la differenza, educare alla diversità, queste sono tutte fatiche che i nostri figli fanno fatica a fare, perché noi fatichiamo a educarli in questa direzione. Ne continueremo a parlare dopo il GR. Diventa ciò che sei. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Domani partirai. Non ti posso accompagnare, sarai sola nel viaggio, io non posso venire, il tempo sarà lungo e la tua strada incerta, il calore del mio amore sarà la tua coperta. Ho temuto questo giorno, è arrivato così in fretta e adesso devi andare la vita. Riprendiamo il tema di oggi sulle note di una canzone di Fiorella Mannoia, In viaggio. In realtà siamo tutti in viaggio, soprattutto riguardo al tema che stiamo affrontando oggi, che è quello dell'inserimento dei nostri figli nella società e quindi come superare quelle difficoltà, quei disagi che, come la cronaca ci insegna, gli atti di bullismo possono generare. Ed In viaggio è l'epilogo anche del libro di cui stiamo parlando oggi. Abbiamo invitato Alberto Pellai, autore del libro Girl Revolution, che è fresco di stampa, su cui ci siamo, tra virgolette, appoggiati per commentare i fatti di cronaca. Alberto. Sì, proprio la canzone che ho scelto anche per finire il libro, questo è un testo intensissimo, che dice che poi noi adulti li dobbiamo vedere andare, loro si spostano dal territorio dove noi li abbiamo sempre protetti, si muovono nel mondo e devono cercare di fare il meglio che possono per diventare quello che vogliono essere. È chiaro che spesso, soprattutto in preadolescenza, fanno anche molta confusione, molto caos, non li possiamo mollare del tutto e ci dobbiamo domandare qual è il nostro ruolo. Per esempio, proprio una domanda che mi avevi fatto tu, Nicoletta, prima della pausa: ma se nostro figlio non è una vittima ma è un bullo, per esempio, qual è il nostro ruolo come genitori? Ecco, è molto interessante vedere che a volte i genitori vengono convocati a scuola, il dirigente, il professore ti dice alcune cose che sono successe e di cui tuo figlio è stato responsabile, e noi come genitori abbiamo una posizione che è quella di lo dobbiamo difendere. Non può essere stato lui, probabilmente la colpa è anche degli altri. Io credo invece che serva davvero ai nostri figli sentire che gli adulti si sanno alleare. Il nostro ruolo non è dare colpe, ma è eventualmente aiutare i figli a sentirsi corresponsabili, e se hanno fatto qualcosa che non va bene, aiutarli a trovare prima di tutto un passaggio riparativo. Cosa significa chiedere scusa, cosa significa rimediare un danno fatto, ma soprattutto poi continuare nel loro percorso senza più fare gli errori di cui si sono resi protagonisti. Abbiamo Stefano D'Alecco, buongiorno. Buongiorno, io chiamo per una cosa che non è relativa al bullismo però, ma alla preadolescenza. Sì. Nel senso che io ho una bambina di 11 anni, compie oggi 11 anni tra l'altro. Auguri! E mia moglie sta aspettando il terzo figlio, che nascerà, penso, fra una quindicina di giorni. E mia figlia è un anno, più si avvicina, diciamo, la data di questa cosa, che manifesta questa paura di andare a letto. Mm. paura ai mostri, non i mostri, cioè i mostri e legati, certo, l'arrivo, l'arrivo di un fratellino è sempre un po' uno, esatto, sconquasso emotivo. Alberto, non è naturalmente è un po' fuori tema la richiesta di Stefano, ma noi abbiamo detto che anche il clima familiare è fondamentale per dare quella sicurezza ai nostri figli nell'affrontare. Sì, poi molto probabilmente quello che ci sta dicendo la figlia di Stefano è che davvero nel suo cervello stanno succedendo un sacco di trasformazioni. Una delle cose che caratterizza la preadolescenza e che le neuroscienze spiegano molto bene è che il cervello emotivo entra proprio in una zona di tsunami, dove sente tantissimo e amplifica enormemente le emozioni e le sensazioni che vive. Ecco perché a 10-11 anni magari sente delle paure che non aveva sentito prima. In questo caso ha bisogno di molta rassicurazione e soprattutto di provare a vedere bene cosa c'è dentro quelle paure. Probabilmente un po' i cambiamenti dentro casa, ma certamente anche i cambiamenti fuori casa. I 10-11 anni sono una delle zone di maggior cambiamento della nostra vita. La cosa che fa bene a un figlio è poterne parlare tanto. Se un genitore pensa di non riuscire a dare l'aiuto adeguato, eventualmente parlatene col pediatra. Allora, a proposito di parlarne con i genitori o con la scuola, ci scrive su WhatsApp Nadia: anche mio figlio, i primi 3 anni di liceo, ha avuto problemi di pseudobullismo con alcuni compagni. Abbiamo immediatamente parlato con i professori. Personalmente ho parlato con i genitori dei 2 ragazzi che sono caduti dal pero, perché no? Nessuno vuole essere mamma o papà di un bullo, sono sempre così carini i nostri figli. In conclusione, ora è in quinta liceo, la situazione è rientrata, ma mio figlio non ha più voluto avere niente a che fare all'interno della classe. Alberto, sì, questo è questo è quello che occorre fare se abbiamo il sospetto che il nostro figlio sia o bullo o vittima di un bullo? Allora, la cosa da capire è se tra i 14 e i 15 anni io posso sostenere mio figlio per fare sì che lui trovi un modo per regolare la situazione che sembra impazzita intorno a lui, allora io punto sulle sue competenze. Se invece mio figlio mi sembra travolto da quello che sta succedendo, è in balia di cose su cui lui non ha alcun controllo, allora il mio ruolo di adulto è allearmi con gli altri adulti che in quel sistema hanno potenza e competenza. Quindi devo informare gli insegnanti e la scuola si dovrà fare carico del cambiamento della situazione, perché è fondamentale far sentire protetto e sicuro ogni ragazzo e ogni ragazza che al mattino varca il cancello della scuola. Andiamo a Maria Francesca da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Maria Francesca, ci dica. Io ho un ragazzo di 13 anni che sta nella piena preadolescenza, inizio adolescenza, e mi sono accorta già da qualche tempo, facendo un lavoro importante su di me, quanto sia importante educare i ragazzi alla diversità, soprattutto insegnargli ad essere se stessi, perché oggi come ad oggi invece vige proprio la mania del protagonismo, di essere uguali, stereotipati, tutti omologati, certo, tutti omologati, e quindi il bullismo diventa al contrario. Quindi per noi genitori in questo senso è importantissimo, soprattutto quando gli atti di bullismo, secondo me, da quello che riesco a vedere io, essendo anche rappresentante di classe, quanto tante volte gli atti di bullismo siano proprio dipendenti, cioè i figli sono tante volte lo specchio delle mancanze genitoriali. E certo, è quello di cui parlavamo, Maria Francesca, proprio con Alberto, quando facevamo riferimento proprio alle dinamiche familiari, alla relazione tra i genitori e anche ai valori, no? Che si trasmettono in famiglia, i momenti di confronto. Molti di voi ci stanno scrivendo gli sms: tutto sarebbe più facile se si insegnasse ai nostri figli il rispetto per l'altro, e anche il rispetto, io dico, Alberto, per se stessi. È fondamentale. Se uno non ha rispetto per sé, cade molto facilmente vittima di queste situazioni. Abbiamo 30 secondi per Giorgio da Torino, che poi salutiamo, con cui chiudiamo poi questa prima parte di Cuore Denari. Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Allora, il discorso è semplice. Mi dica lei che l'ha capito. No, ma io non è che l'ho capito, io l'ho vissuto. Sì. Il discorso è che il bullismo è sempre esistito. Adesso, oltre a esserci questo discorso di bullismo, c'è una situazione un po' particolare, cioè il ragazzo non viene istruito dai genitori, perché se viene istruito in una certa maniera, magari c'è il telefono azzurro. oppure non possono magari anche i docenti insegnare qualcosa, perché altrimenti vengono denunciati. Quindi tutti quanti sono pronti a denunciare chiunque sta attorno, ma nessuno insegna ai ragazzi come devono comportarsi. Siccome è un discorso molto delicato e molto, molto lungo, il problema qual è? È semplicemente che le istituzioni non danno una certa sicurezza, ma la sicurezza non è sentire, come diceva prima l'intervistato, che devono essere tranquilli ad andare a scuola. No, devono avere una sicurezza caratteriale, perché non tutti nascono con lo stesso carattere. C'è chi è più vivace e chi lo è di meno. Quindi quello che è più vivace certamente sarà più propenso a commettere degli atti un pochettino più da bullismo rispetto agli altri. E come succede dappertutto, sia nel bullismo della scuola che quello del lavoro e quello del militare, funziona che automaticamente se uno è più forte viene rispettato. Se è un non po', lo è un po' come succede negli animali, Giorgio. Allora, Alberto, un commento alla riflessione di Giorgio prima di salutarci. Che personalmente quello che dice Giorgio ci farebbe dire che il più potente sarà sempre quello che poi è in grado di tutelarsi. Ma il bullismo non è un problema di autotutela e non è un problema di potenza. Il bullismo è un problema di competenza. Non è che io devo sopravvivere nel mio gruppo, è che il gruppo si deve fare carico di proteggere qualsiasi persona che si trova al suo interno, quindi è il gruppo che deve essere forte, è l'unione che fa la forza, e chiaramente questo è una cosa che sia i genitori che gli educatori devono imparare a costruire con i figli e con gli studenti con cui sono a contatto. Ricordiamo che nella nuova legge contro il bullismo potrebbe diventare il bullismo un reato a sé, quindi su questo se ne sta discutendo e si vuole, oltre a creare un reato specifico, anche fare dei corsi di prevenzione che a mio avviso sarebbero utili anche per i genitori. Alberto, che dici? Assolutamente, credo che aiutare e sostenere i genitori nel mestiere di genitore poi in automatico protegge un figlio e gli permette di non essere né vittima né bullo. Allora, grazie ad Alberto Pellai per essere stato con noi, in bocca al lupo per questo nuovissimo libro fresco di stampa, Girl Revolution, dedicato alle femmine, ma naturalmente anche ai loro genitori, esatto, da leggere insieme. Grazie, grazie ad Alberto. Grazie Alberto. Noi a presto. Cambiamo ospite, cambiamo tema. Esattamente, peraltro l'ospite che ti presento è anche papà di una ragazza grande, se non mi ricordo male. Ah, due, sì, mi sono anche persa qualche figlio. Paolo Zucca, responsabile di Plus 24 del Sole 24 Ore, con il quale introduciamo l'argomento che andiamo ad approfondire ora. Ancora una giornata nera per le borse, con il petrolio ai minimi, Milano la peggiore, trascinata dal crollo delle banche. Le ombre sulle banche, soprattutto una. Seduta drammatica per Montepaschi, che perde quasi il 15%. Consob, indagini sulle vendite. Il mercato del petrolio che continua a scendere fa tremare i mercati, borse in altalena, recupero in chiusura mutuo, per le europee. Mutuo un concetto che prima ha espresso il nostro Alberto Pellai. Sento molto male adesso, scusami Carmelo, ecco qua, grazie, mi ha risistemato un po' le cuffie. Mutuo un concetto che esprimeva prima Alberto Pellai, una situazione che sembra impazzita, va benissimo anche questa definizione per quello che sta avvenendo in borsa. Uno tsunami l'ha definita. Esatto, una giornata da KO, quella che hanno vissuto ieri i titoli bancari italiani, oggi rileggiamo lo stesso copione, a quanto pare avremmo voluto raccontarvi di una giornata diversa, di una giornata di rimbalzo, invece a quanto pare non ce la facciamo. Questa volta non c'entra esattamente il petrolio, ma i nuovi esami della Banca Centrale Europea sulle sofferenze delle banche europee, un problema che per le sole banche italiane vale qualcosa come 200 miliardi di euro. Questo dovrebbe essere il valore della cosiddetta bad bank che dovrebbe essere costituita, che fa scatenare anche le grandi polemiche fra Italia e Bruxelles. Allora, la questione delle sofferenze bancarie non dovrebbe essere esattamente una novità, eppure i mercati ieri hanno reagito malissimo di fronte all'eventualità che l'Europa, eventualità, perché poi anche questa è una situazione che va ben spiegata e chiarita, che l'Europa chieda regole più stringenti e requisiti più rigidi sulle dimensioni patrimoniali dei vari istituti di credito, e questo lascerebbe presagire la necessità di fare ricorso a nuove capitalizzazioni, operazioni considerate sempre indigeste al mercato. Pesantissima ieri Monte dei Paschi, è crollata del 14,8%, stamattina riusciva in avvio a recuperare 6 punti, adesso è bloccata per eccesso di ribasso, è stata bloccata alle 10,47 quando perdeva il 10,71%, è finita anche sotto i 70 centesimi, siamo a 68 centesimi come valore. Praticamente in borsa la sua capitalizzazione vale 2 miliardi ed ha bruciato tutto l'aumento di capitale da 3 miliardi che è stato fatto lo scorso giugno. Ma altrettanto pesanti sono state ieri, lo sono di nuovo questa mattina, tutte le altre popolari che nei giorni scorsi si erano mosse invece in positivo sulla scia delle notizie sulla ripresa del risico bancario italiano. In particolar modo, lo ricordo, ricorderete, si era parlato molto di una potenziale aggregazione in arrivo, comunque studiata nei particolari, fra la Popolare di Milano e il Banco Popolare. Ieri però il mercato ha chiaramente detto stop a tutto questo. Cosa è successo? A mente fredda, ma in realtà neanche tanto, perché con quello che vediamo oggi non riusciamo neanche a raffreddare i pensieri. Come dobbiamo leggere le notizie di queste ultime ore? Il mercato ha dei bersagli chiari. Monte dei Paschi, il Banco Popolare, Popolare dell'Emilia Romagna, anche Unicredit perde il 5%, la Popolare di Milano meno 4%, perdeva terreno anche Intesa, che adesso invece ha ripreso a recuperare qualcosa, più 0,23%. Fuori da queste vendite, Banca Mediolanum che va bene, Mediobanca che va bene, insomma questo è un po' il quadro di questa mattina. Insieme a Paolo Zucca, che abbiamo già salutato, saluto e ringrazio per essere con noi Salvatore Gazziano, responsabile delle strategie di investimento di Soldi Expert e consulente indipendente. Buongiorno Gazziano. Buongiorno a voi. Paolo, un vero e proprio bollettino di guerra per quello che riguarda il settore bancario italiano, anche se ormai ci siamo abituati da inizio anno. Ieri è stata talmente tanto colpita l'Italia e oggi lo è di nuovo che siamo davvero rimasti particolarmente impressionati. Io ti dirò che queste ultime ore mi ricordano molto l'estate del 2011, l'estate dello spread volato a 570 punti base. Pensavamo di aver già dato sul fronte bancario nelle ultime settimane, dopo la famosa approvazione del decreto salvabanche, il famoso caso che ha visto unite nella cattiva sorte la Pop Etruria, Banca Marche, Cari Ferrara e Cari Chieti. Cosa sta succedendo in queste ultime ore? Faccio un po' riassunto delle tante pagine del Sole 24 Ore di stamattina. Andiamo su dati certi. Ieri sera alcuni istituti hanno confermato che la BCE visiterà le loro stanze, grandi stanze, controlleranno la qualità dei crediti e andranno a vedere quindi se ci sono degli appostamenti, cioè dei fondi messi a disposizione per coprire questi crediti che stanno andando male, cioè che non vengono restituiti, e quindi probabilmente chiederanno ancora una volta forme prudenziali, aumenti di capitali, eccetera. Questo mi sembra il dato su cui ragionare. Era stato anticipato sabato dal Sole 24 Ore questa intenzione della BCE di visitare alcune banche, non tutte, ma sono sostanzialmente le principali, e quindi si prevede che da questo nuovo esame emergerà quello che è un problema italiano, che oggi Moria Longo ha scritto brillantemente sul Sole, cioè una mole di sofferenze importante. Sofferenze, lo dice il nome stesso, sono crediti che non sono rientrati, non sono state pagate le rate, e sono passate già ai legali, quindi si ritiene che quella sia l'unica strada per riottenere qualche cosa. E qui già possiamo fare anche la differenza fra i due famosi concetti di sofferenze bancarie da una parte e crediti inesigibili, che sono proprio quelle partite che non verranno più recuperate. Sì, poi si parla di crediti deteriorati, che è una massa ancora maggiore, quindi da 200 miliardi si passa a 350, ed è una mole che il sistema italiano ha accumulato negli anni, in parte ha protetto con dei fondi, ma se lo andate a vedere nell'esame europeo, complice un'economia molto debole, è difficile da recuperare. Sono stato chiaro, Nicoletta? Sì, è vero che ti sono incantata. Pendo dalle tue labbra. No, perché spiegare in termini semplici queste vicende che poi gettano nel panico gli ascoltatori è molto difficile. No, noi non abbiamo bisogno né di creare panico né di togliere. Però se tu vedi il guizzo nei miei occhi vuol dire che sei stato chiaro, perché sai che io sono un po'... È un tema molto delicato per addetti ai lavori, e penso e sono convinta che Paolo Zucca abbia questa modalità, no? nel farci comprendere le cose difficili con parole semplici, che è uno dei tuoi meriti. Senti, possiamo ricordare ai nostri ascoltatori quali sono le banche a cui la Banca Centrale Europea avrebbe anticipato che farà presto loro nuovamente visita, perché lì c'è stata anche tutta la bagarre ieri sul fatto che questa lettera fosse falsa, in che termini fosse stata scritta. In realtà sono richieste di chiarimento proprio su queste partite di crediti deteriorati, no? Sì, addirittura la Consob ha chiesto agli istituti esattamente quotati diteci voi quali sono, quali siete, fatevi avanti, mettetevi allo scoperto. A tutt'oggi, a tutt'ora, mentre parliamo, ci sono fuori Intesa, c'è fuori Popolare di Sondrio, le altre principali ci sono, tutti BPM, tutto. Qualcuno ha cercato di leggere perché alcuni, perché non altri. BCE ha una sua modalità anche di vigilanza e quindi avrà scelto secondo dei suoi criteri, forse anche rispetto alle forze che ha a disposizione per fare queste verifiche. Allora, una verifica sulla qualità dei crediti in sé non dovrebbe spaventare. Esatto. Evidentemente c'è un problema di fondo, che la quantità di crediti difficili, una volta si diceva in aceto per descriverli, cioè che non sono più vino buono, vedi, questa mi piace già perché rimande immediatamente. È un po' un termine vecchio bancario, ma insomma è questo. Crediti che non sono più validi. In Italia sono molto importanti. La ripresa economica non c'è stata, quindi le imprese non sono state in grado di rientrare, diciamo, dei prestiti che hanno ottenuto, e questo si scarica sui costi del sistema bancario. Mm-hmm. L'Italia è molto fragile da questo punto di vista. È fragile anche un po' politicamente, perché si ha la sensazione che alcuni giochi passino per il centro Europa e non per la periferia. Però questa è una visione che potrebbe essere, diciamo, molto politica. Noi dobbiamo discutere e ragionare su dei numeri. E i numeri ci dicono in questo momento il problema della bad bank, banca cattiva, che vuol dire, per gli italiani, ma le banche cattive sono tutte. La banca cattiva vuol dire invece luogo dove mettere questi crediti oramai persi o quasi completamente persi, gestirli con operatori esterni specializzati per recuperare il possibile, permette di liberare delle risorse alle banche buone e avere, diciamo, un nuovo flusso di crediti all'economia. La procedura che è stata seguita per le quattro banche salvate, sì, se dobbiamo proprio banalizzare la situazione. Quello ecco, in un momento drammatico, certo, hai fatto quella scelta che sarà una scelta classica. Qui in maniera meno drammatica, però la separazione fra quello che è stato il passato e quello che può essere il futuro va in qualche modo fatto per singola banca, con una singola bad bank, una bad bank complessiva e tutto, senza gli aiuti di Stato. Stiamo entrando in una zona un po', diciamo così, molto tecnica, esatto, però è un modo per liberare risorse da prestare all'economia. Il tema interessante sarebbe capire come mai c'è stata un'accelerazione proprio in questi giorni dell'emersione di questa vicenda. Allora chiedo un commento a Salvatore Gazziano, perché quello che mi piacerebbe sapere è almeno cosa ne pensate voi, esperti indipendenti, di tutto questo, no? Io non dico che la crisi bancaria fosse stata superata, certo è che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, Gazziano, abbiamo tanto enfatizzato l'aspetto del ritorno all'erogazione dei prestiti, dei mutui da parte delle banche italiane, anni, il che ci lasciava immaginare che fossero ritornate in una situazione appunto di solidità abbastanza consistente e significativa. Non è un controsenso tutto quello di cui si è parlato negli ultimi giorni rispetto a quello che invece è avvenuto nelle ultime ore? O sono due mondi separati che non comunicano tra di loro? Ah, diciamo che sono due mondi separati che non comunicano tra di loro, ma però purtroppo, come bene ha descritto il direttore di Plus Paolo Zucca in termini molto comprensibili credo per la maggior parte dei risparmiatori, abbiamo un problema di numeri e abbiamo un problema spesso quando si parla di banche, si parla di sistemi basati comunque molto sulla fiducia, di essere di parere, come direbbe Pirandello, e purtroppo se andiamo a vedere anche quello che è successo in borsa nelle ultime settimane, il famoso citato decreto salva banche del 22 novembre ha acceso probabilmente i riflettori del settore, mettendo a nudo molte fragilità del sistema e purtroppo anche degli organi di controllo e un poco della gestione in Italia di tutto ciò che riguarda, e non solo in Italia, a livello europeo, quello che riguarda la normativa della unione bancaria, dei salvataggi, della gestione, delle sofferenze. Insomma, credo che il problema è che sta emergendo sempre più sul mercato anche un po' una gestione un poco all'italiana, che confida, forse ha confidato troppo nello stellone per risolvere grane che ci portavano avanti da molti anni. È vero che, come giustamente ricordavi Deborah, abbiamo avuto dati migliori nel 2015 sulla crescita o anche sulle banche, però come appena ha ricordato questa mattina su Sole 24 Ore Moria Longo, addirittura dal 2001 a oggi l'economia reale ha visto prestiti diminuire di 100 miliardi sul settore del ciò che riguarda dell'erogazione. Se andiamo ad esaminare i dati, in realtà quelli che sono cresciuti di più sono i prestiti personali, perché sui mutui molto spesso si parla di surroghe. Sui prestiti personali vuol dire che è il risparmiatore che sì, però c'è forte tamponare attivismo nel loro core business, il che dovrebbe essere comunque garanzia di serenità e solidità. No. Sì, però garanzia di solidità, però qui stanno venendo un po' nodi al pettine, non di poco conto, perché come ha fatto bene l'analisi intuitiva Paolo Zucca, parliamo di un sistema che delle misure, dei confronti, quando parliamo di 200 miliardi di euro di crediti deteriorati, significa che in Italia circa il 17-20% degli impieghi è considerato in acero, per usare la giusta definizione. In Francia o in Spagna parliamo del 4% o del 7%, quindi in Italia il grosso problema da questo punto di vista è che pesa molto sulle banche, soprattutto se il clima, come abbiamo visto nel giro di poche settimane, cambia, perché questi crediti, se non verranno restituiti e vi è una difficile probabilità su molte di queste partite, significa inevitabilmente che qualcuno deve tirare fuori i soldi. Certo. Chi può tirare fuori i soldi? Solo, questo può accadere attraverso la sospensione da parte di molte banche della corrispondenza di dividendi, ma e anche attraverso nuovi aumenti di capitale. E quello che stiamo vedendo in borsa è che le banche, dove già gli azionisti sono stati chiamati a tirare fuori i soldi più volte negli scorsi anni, i risparmiatori iniziano a essere non solo stressati, ma stremati e spesso in fuga. Monte dei Paschi e Unicredit sono infatti proprio fra le vittime, insomma, proprio di questa situazione. Allora, ci dobbiamo fermare, Salvatore Paolo, perché abbiamo proprio il racconto della giornata di borsa. Adesso rifacciamo un refresh ai nostri ascoltatori. Intanto 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Molti di voi chiaramente si chiedono a questo punto che cosa dobbiamo fare: mantenere il nostro conto corrente in queste banche, spostarlo, come facciamo ad avere garanzia che questa situazione sia temporanea, passeggera e non duratura, e insomma tanti i dilemmi a cui daremo spazio tra poco. Cuore e denari. La verità dei fatti impone di dire che non c'è rischio sistemico per le banche italiane, che le banche italiane sono molto più solide di banche di altri paesi, che non cambierei il sistema bancario italiano con quello tedesco nemmeno sotto pagamento. Le parole di Matteo Renzi alla fine del 2015, chissà se oggi direbbe lo stesso. Conoscendolo probabilmente sì, ma dopo la tempesta che si è battuta ieri sui titoli delle banche italiane, che oggi prosegue, certo che un suo commento sarebbe anche di auspicio. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione, raccontateci quali sono le vostre preoccupazioni, non vi sentite sicuri, ed effettivamente c'è il messaggio che Nicoletta li sintetizza tutti su WhatsApp, no? Quelli dei nostri ascoltatori. Cosa dice? Ad esempio un ascoltatore ci scrive: ma come può un normale risparmiatore sapere se la sua banca è tra quelle esposte al rischio? È una domanda. Paolo direi che la raccoglie un po' tutte. È la domanda delle domande, perché in questi giorni stiamo facendo, ma che l'avevamo già programmato da tempo, non per, diciamo, la contingenza di questi giorni dei mercati e delle banche, stiamo facendo degli incontri con i risparmiatori. Sì. Io personalmente lunedì scorso, ieri sera, il collega Gianfranco Ursino a Reggio Emilia, e la domanda è sostanzialmente questa: come si può individuare il segnale premonitore di una crisi, di una difficoltà bancaria? Allora, a grandi linee bisognerebbe seguire alcuni elementi, essere informati mediamente, ok, ma seguire in grandi linee. Un aspetto patrimoniale: c'è un indicatore, è un rapporto, è un ratio, come si dice, si chiama CET1. È la consistenza del tuo capitale e delle tue riserve per far fronte alle attività di impiego che hai fatto. Quanto, di quanto deve essere questo allora, valore? Allora, non è uguale per, certo, per tutti. Come siamo, è un rapporto, 10, una percentuale. Un rapporto, 10-12%. C'è anche un cuscinetto. Così. Più è lontano comunque, cioè molto più forte, diciamo, il dato reale di CET1, un indice patrimoniale, rispetto al minimo che ti viene richiesto. Era quello che chiamavamo il Tier 1 qualche tempo fa. Il Tier 1, esattamente, ed è la miglior qualità, diciamo, delle riserve e del capitale che tu hai a disposizione per far fronte agli imprevisti. È un concetto un po' difficile, ma far fronte anche agli impieghi che possono cambiare. Un'attività in un settore può avere improvvisamente delle cadute e quindi i tuoi crediti non rientrano. Parliamoci chiaro, Paolo: noi possiamo andare in banca e chiedere all'operatore che ci troviamo di fronte, se dovessimo fare una normale operazione, andiamo in banca perché dobbiamo fare un bonifico, ma quella mattina ci gira un po' e siccome siamo un po' spaventati chiediamo un documento in cui ci dia questa informazione. Ce la può dare tranquillamente la banca? Lo non possiamo trovare pubblicamente? Deve essere comunicata e tutto, ma è uno degli indicatori, forse è il più importante obiettivamente, il CET1. Mi rendo conto che dopo aver inserito lo spread, altre cose, inserire il bad bank, inserire anche CET1 no, noi veniamo a scuola di cuore denari, dalla parte dei denari, per no, farci quella cultura, ecco, nel mondo finanziario dei denari non è facile, diciamo, ma noi ascoltiamo, diciamo, e impariamo. La consistenza patrimoniale e l'abbondanza di patrimonio che hai a disposizione rispetto ai minimi. Sì. Questo è uno degli elementi. Io ci aggiungo anche un'altra cosa, Paolo, perché stamattina stavo guardando banalmente, una lettura un po' più attenta dei giornali, sì, perché c'è qualche ascoltatore che ci dice, per esempio, adesso non so se i ragazzi la prenderanno, Alessandra da Genova, che voleva intervenire su Banca Carige perché si lamenta che nessuno ne parla. Allora io quando leggo questi messaggi mi indispettisco un po', perché diciamo della situazione di certe banche non solo non se ne parla, se ne parla da tanti anni. Io mi vedo costretta di nuovo stamattina a riconoscere il lavoro che come Sole 24, mi rendo conto che non tutti magari leggano il Sole 24 Ore, ma sulla cronaca dei quotidiani della Liguria immagino che le vicende di Banca Carige degli ultimi anni siano state scritte, riscritte, trite e ritrite. Anzi, vado all'Erici da Salvatore Gazziano, no? Perché quando qua qualcuno mi dice nessuno ne parla, nessuno sa, c'è anche un pochino da indispettirsi, Gazziano. Mi sente? Aspetta, guarda, Salvatore, è proprio ad Alessandra che mi riferivo, voglio ascoltare, aspetta un attimo. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io sono una persona molto ignorante, e ho 66 anni, sono pensionata, ho tutti i miei risparmi alla Carige di Recco, filiale di Recco, e anche la mia mamma, che figuri, ha 91 anni, ha tutti i suoi risparmi lì, investiti diversamente. Non abbiamo azioni della Carige, questo brava, è sicuro. Non abbiamo obbligazioni pericolose, questa domanda l'ho già fatta. Allora è tutt'altro che ignorante, Alessandra. Lei mi sembra molto attenta, ha fatto le domande giuste al momento giusto. Quindi Io però non so, che so che la Carige era abbastanza nel mirino, nel senso che aveva problemi, non so bene, ma insomma so che nel tempo sui giornali si leggeva Banca Carige, hanno cambiato direzione, hanno fatto un sacco di cose, non so come sia attualmente la situazione e se nel caso non sarebbe meglio o trasferire i miei risparmi o quantomeno trasferirne una parte. Un'idea che mi frulla nella testa è che non bisogna mai puntare tutto sullo stesso cavallo. Mi pare di capire che abbia colto perfettamente le regole. È molto più informata della media degli italiani. Ma guarda che dicono sempre così, io non so niente, poi invece sanno altro che... Allora, dividiamo le due cose. Uno, di Banca Carige si parla abbastanza, si parla sicuramente anche sui giornali locali, figuriamoci, e si parla anche sul Sole 24 Ore e sulle altre testate, quindi la copertura, diciamo, dei giornalisti e delle informazioni su Banca Carige è significativa. Per quanto riguarda la descrizione che si è stata fatta in questo momento, se ho capito bene, neanche obbligazioni pericolose, poi bisogna capire cosa intende pericolose, quindi intendo subordinate in questo momento, e poi c'è un problema di investimenti liquidi. Come sappiamo è scattato il bail-in. Che adesso non stiamo qui a fare tutta la storia. Comunque, no, ma sai che faccio? Guarda, la faccio fare a Salvatore Gazziano, non per toglierti la parola, solo perché lui nei suoi siti in questi giorni ha scritto questo bel pezzo intitolato "Il risparmiatore, tra virgolette, molto preoccupato nell'era del bail-in". Salvatore, da cosa vuoi partire? Dalla banca del tuo territorio? O dalle preoccupazioni della nostra Alessandra, dal bail-in? Sono tutte cose, diciamo, sicuramente connesse, che si sommano e che, diciamo, vi è un atteggiamento purtroppo diffuso da parte di molti risparmiatori in questi anni, che hanno cercato, anche su un'immagine non vera, no, quella che raccontava Plinio dello struzzo che nasconde la testa, di non informarsi molto di quello che riguardava il proprio denaro, dicendo che era una cosa noiosa, una scienza triste quella dell'economia, o che comunque vi era una sicurezza soprattutto da parte delle banche, e molte banche hanno anche sfruttato collocando prodotti spesso non corretti, prodotti tossici, e addirittura banche che oggi sono in guai borsistici e non solo, si sono vantate negli scorsi anni di avere un altissimo tasso, come dicono loro, di retention, cioè nonostante tutto quello che collocavano, le loro pessime gestioni economiche, di avere questi clienti che continuavano a essere fedeli e a comprare prodotti spesso inefficienti. E oggi il mercato sta dimostrando, purtroppo, ripeto, dal 22 novembre, dal decreto salvabanche, che essere intervenuti in modo così maldestro ha toccato dei nervi molto forti, e purtroppo devo confermare che mi risulta che in Liguria, ma non solo, molte in Toscana, in molte regioni, molte di queste banche in questo momento, oggi dovrebbero uscire anche i dati di ABI sulla raccolta diretta, sta iniziando a invertirsi il fattore di retention. Molti risparmiatori, come ha bene dimostrato questa cliente, iniziano a aver paura di dove sono depositati i propri clienti. Una paura spesso irrazionale, perché in molti casi, perché dipende anche come si è investiti e il patrimonio che si ha depositato presso quella banca. Sicuramente manca, sicuramente da una parte, da parte del risparmiatore una doverosa cercare di capire che non esistono pasti gratis, ma occorre anche però informarsi, come spesso bene ha fatto in questi anni il Plus e Radio 24. Allora, aspetta Salvatore, adesso ci darai qualche suggerimento su questo, perché l'ultimo quarto d'ora sarà completamente ad appannaggio tuo, perché Paolo Zucca deve andare a riunione e deve lasciarci, però un ultimo commento con Paolo volevo farlo. Questo mercato bancario, il mercato dei titoli bancari, si era mosso molto all'inizio dell'anno, in un frangente in cui tutto scendeva, sulla scia delle notizie relative ad una presunta ripresa del risico bancario in Italia. Molte banche, proprio per le condizioni patrimoniali in cui si trovano, devono necessariamente andare a aggregarsi, sposarsi con matrimoni che possono avere caratteristiche diverse. Si è parlata di questa fusione tra la Popolare di Milano e il Banco Popolare alla pari, eccetera. Mi pare di capire che, alla luce di quello che è accaduto negli ultimi due giorni, di questo risico bancario, ne dovremo parlare sempre meno, dovremo accantonare questo argomento. Che beh, ne dici? Beh no, perché poi le banche popolari devono diventare società per azioni, è una legge dello Stato, ci sono delle convenienze in alcune operazioni, in altri casi le banche possono rimanere da sole e andare avanti a vivere tranquillamente in formato SPA. Fammi dire soltanto una cosa. Quando abbiamo detto il CET1, bisogna curare però anche di altri aspetti quando si guarda una banca, siccome è la domanda principale che ci fanno i risparmiatori in questi giorni. Guardare anche la redditività ordinaria, cioè quanto utile, se riescono a fare utile, riescono a fare dell'attività tipica della banca, perché se non è che vendo tre case, tre grandi stabili di lusso, la banca va in utile e quindi è una banca sana, è una banca che ha venduto i suoi gioielli in casa. Bisogna guardare anche l'aspetto reputazionale, se ci sono delle inchieste della magistratura, eccetera. E bisogna guardare le sofferenze di cui abbiamo parlato in abbondanza, per dire che il dato di borsa e anche il dato del CET1 non aiutano a scegliere. Bisogna avere un insieme di un complesso di fattori. Per fare diagnosi bisogna avere... Bravissima. Per fare diagnosi bisogna avere più aspetti da guardare. E questo perché è la domanda principale, e magari il prezzo di borsa può spingere a spostarsi una banca all'altra. Oggi pomeriggio verranno diffusi i dati dell'ABI. Per quello che ne sappiamo noi, l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, ci sarà un incremento dei depositi presso le banche dell'ordine del 3-4% a dicembre. Quindi non c'è nessuna fuga dagli sportelli in senso generale. È possibile, e forse sarebbe anche giusto, che ci sia qualche spostamento. Ci sia qualche spostamento fra una banca vissuta come pericolante anche perché in virtù del bail-in, visto che stiamo suggerendo a tutti di tenere per esempio depositi inferiori ai 100.000 euro sul conto corrente, sui conti di deposito, è chiaro che magari qualcuno che aveva già superato questa soglia la sta abbassando, la sta trasferendo. Ultimissima cosa, altrove. Poi scappo. Sì. Questa mattina l'Associazione delle Banche Popolari ha diffuso il dato dei depositi, cioè quanti soldi gli italiani vanno a porre nelle banche, in questo caso delle banche popolari, e i depositi sono aumentati nel corso del 2015, ma anche a dicembre, eccetera, del 4,6%. Quindi almeno nelle tante incertezze abbiamo una certezza che, a torto o a ragione, questo rapporto fiduciario, diciamo, di consegna del denaro alle banche invece di metterlo sotto il materasso, in questo momento questo problema non c'è. Poi ognuno naturalmente penserà diversamente, come è giusto, però il dato numerico ci dice questo. Adesso che ti sei così arricchito di cuore e denari, puoi andare in riunione, noi invece ci finiamo la nostra programma. Porto Nicoletta in riunione. Lo so, ma vi so che avete questa liaison. E dirò la mia, pensa. Infatti. Ciao a tutti. Intanto grazie, Paolo. C'è il traffico, poi continuiamo con Salvatore Gazziano. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta in questa nuova giornata di cali dei titoli bancari, a dir poco dirompenti. Gli ascoltatori mi contestano quando utilizzo questo termine, stamattina non ne vorrei utilizzare di peggiori, ma intanto Monte dei Paschi è ancora bloccata dalle contrattazioni. Il Banco Popolare perde 10 punti, 9,95, Popolare dell'Emilia Romagna meno 5,58, Unicredit meno 5,43, insomma... C'è anche da divertirsi a fare l'analisi di queste vicende. Salvatore Gazziano, ritorno da te, peraltro ci diamo del tu perché Salvatore è anche un collega con un glorioso passato da giornalista, e quindi ti chiedo, a tutti quei clienti ai quali con la vostra società costruite in questo momento portafogli di investimento, no? Mi chiedo appunto come possiate dar loro un orientamento in questo mare in tempesta. Diciamo sempre, anche quando abbiamo consulenti finanziari con i nostri microfoni, che chiaramente bisogna guardare all'investimento e al risparmio come strade che si percorrono per raggiungere determinati obiettivi di vita, ma certo che poi è difficile rimanere non condizionati dalle vicende di questi giorni, visto che poi li invitiamo anche a tenersi aggiornati, no? Salvatore, come ci si comporta in questi frangenti? Non è facile, perché come hai detto bene, anche se mi diceva Seneca, non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, quando il mare diventa così tempestoso, le onde sembrano essere così alte, molti vorrebbero rientrare al porto, questo è indubbio. Da una parte ci va una sana e consapevole, per citare una canzone, in questo caso educazione finanziaria e pianificazione di quelli che dovrebbero essere gli obiettivi di investimento, e comprendere benissimo che è uno sforzo che noi, ma come credo tutti coloro che operano in questo settore a qualsiasi livello, cercano di fare, di comprendere che i movimenti anche avversi dei mercati non sono, per quanto magari vengono vissuti come estremi, in realtà fuori dal mondo, dal mercato e dal mondo. Negli ultimi 15-20 anni abbiamo visto più crisi finanziarie, abbiamo visto i mercati azionari, obbligazionari oscillare del 50-60% l'azionario, anche del 15-20% l'obbligazionario, e questo l'abbiamo visto tantissime volte, e da tutte queste crisi comunque si è riusciti bene o male a uscire. Certo, qualcuno ne ha pagato le conseguenze, certo. È stato chi si è fatto muovere in base solo totalmente all'emotività, comprando e vendendo in base appunto a non a una bussola dei mercati, ma in base al proprio lato più emotivo, e dall'altra parte chi non ha saputo comprendere che vi erano sul mercato dei grandi mutamenti che non potevano essere più risolti con un approccio passivo del tipo tutto passerà, perché vediamo continuamente nel mercato negli ultimi 10-15 anni un progresso sempre più fatto su crescite esponenziali. Il mercato del mondo sta cambiando, quindi un approccio statico non sempre paga, quindi non è detto che, ce lo ricorderemo, la New Economy nel 2000 prometteva a tutti di diventare ricchi, chi ha investito su Seat, Tiscali, sì, e altri titoli, non lo è assolutamente. Hai riesumato dei casi, ragazzi. Esatto, però anche nel settore bancario. No, per qualcuno sono ancora delle ferite aperte, bisogna dire, perché peraltro non permettono di chiudere dei conti titoli, quindi anche lì apriremo un altro capitolo di complicazioni. Oggi qua dobbiamo ammettere che è successa la stessa cosa, anche se purtroppo non spesso viene detto. Ci sono banche che hanno perso il 99% dei massimi, parliamo di banche nazionali, quindi sicuramente sta avvenendo qualcosa che non è in tutti i casi sarà sicuramente riassorbibile nel futuro. Certo. Ecco, allora Salvatore, peraltro, a proposito di questo, a prescindere diciamo dalle vicende di casa nostra, le vicende domestiche che riguardano le banche italiane, in realtà molti ascoltatori stanno lamentando il fatto che, anche osservando l'andamento degli strumenti che hanno in portafoglio, che sono fondi comuni di investimento largamente diversificati, anche lì la raccomandazione che diamo sempre, questi fondi in molti dei casi, in gran parte dei casi, in questo momento stanno perdendo e tutti si stanno spaventando. Sono vicende diverse, situazioni diverse. Ovviamente se un fondo comune obbligazionario, come ci racconta un ascoltatore, in questo momento perde di valore, non ha nulla a che fare con la banca presso la quale questo fondo è stato sottoscritto. Ecco, però il tema è che forse a qualche ascoltatore ha trascurato, come dire, non si è accorto di quello che è successo sui mercati in queste prime settimane dell'anno, ma di cui in realtà avevamo avuto anche sentore nell'ultima parte del 2015. Quindi spieghiamo anche un po' che, come dire, un fondo che cala non ha nulla a che fare con il fatto che la banca presso la quale l'è sottoscritto in questo momento perde valore in borsa. E soprattutto, che impressione hai su questo tema, sul tema mercati anche, Salvatore? Facciamo i dovuti distinguo, ma come dire, in molti sono preoccupati anche per questo. Aver pazienza o rimodulare anche le scelte di investimento per chi ha esclusivamente fondi in portafoglio? No, allora, da questo punto di vista diciamo che la cosiddetta asset allocation, quanto dedicare l'azionario obbligazionario, dovrebbe essere una cosa che non si cambia continuamente, o almeno se lo si cambia lo si deve fare, quello che noi cerchiamo di fare come società di consulente indipendente, e lo facciamo ma in base a una strategia. Nel nostro caso utilizziamo determinati metodi che abbiamo sviluppato nel corso del tempo dal punto di vista matematico, statistico. appunto, e moduliamo l'esposizione ai mercati, e sicuramente negli ultimi settimane abbiamo diminuito l'esposizione sui mercati, ma lo facciamo non basandoci sull'intuito, che abbiamo visto che spesso è nemico di un investitore, ma deve cercare di muoversi su delle strategie comprovate. Quello che dici è corretto, ma purtroppo anche qui dobbiamo ricordare che al di là della crisi che può colpire in questo momento soprattutto il settore bancario, che è sicuramente oggetto da parte di vendite, da parte sia della speculazione ma anche degli investitori istituzionali che magari erano entrati in alcune banche convinte che il peggio fosse passato, ma in realtà non era così. Sul mercato da inizio anno abbiamo perdite che arrivano al 30% sul settore bancario nazionale, ma comunque se ne apprende indici come l'Eurostox, come la maggior parte, quindi le borse europee viaggiano sul meno 10-15%, quindi evidentemente anche fondi o ETF, perché poi spesso vi è anche il mito da parte di alcuni risparmiatori che gli ETF hanno un andamento difforme dei fondi, non fanno altro che replicare i panieri, dei titoli. Quindi da questo punto di vista la compagnia in questo momento da parte del mercato non è sicuramente molto, molto forte, perché molte nubi sono tornate a offuscare. E infatti è questa tendenza del petrolio non aiuterà certo la ripresa dei mercati. Quello che volevo però dire anche Salvatore Gazziano, peraltro lo affronteremo anche giovedì in Investire Informati, è che se, perché mi rivolgo agli ascoltatori che ci stanno descrivendo proprio casi di questo tipo, se un fondo di investimento, visto che molti sono tornati sui fondi per andare sui mercati di recente, lo avete sottoscritto 6 mesi fa, non potete starlo a monitorare giorno per giorno. La, come dire, filosofia dell'investimento nel fondo comune è quella di dargli un po' di respiro, qualunque caratteristiche abbia, sia che sia obbligazionario che azionario. Salvatore, certo, monitorare il risparmio è corretto, fare un check-up ricorrente con il proprio consulente è giusto, ma non ossessionarsi se si è sottoscritto un fondo 3 mesi fa. Sì, però questo purtroppo è un problema non solo di educazione finanziaria, è un problema che, come ci insegna la finanza comportamentale, è un problema che gli studiosi di questa disciplina dicono che è proprio un baco che c'è nel cervello non solo degli italiani ma di tutti gli investitori, che sul fatto di reagire in maniera molto emotiva e non ragionare in termini prospettici corretti, di diversificazione del rischio, di attese, oltre che alla base spesso proprio di strategie, quando si riguarda i propri risparmi. Credo che la maggior parte dei risparmiatori, anche per esperienza diretta, un consulente gli spiega qual è il rischio che c'è sui mercati, di avversione alle perdite, cerca di misurare sulla carta queste situazioni per evitare che quando accadano ci si senta smarriti e persi, o in certi casi, come può capitare anche in questi ultimi giorni, anche quasi terrorizzati. Certo. Purtroppo un conto è la teoria, un conto è la realtà, perché poi spesso il risparmiatore non preparato, che non ha una grande magari esperienza o sì, pensa che... Dobbiamo salutarti, Salvatore, facciamo una cosa, riservati tutte queste raccomandazioni per un'altra puntata che faremo a breve. Intanto grazie, dalle banche siamo arrivati alle raccomandazioni finali sul risparmio, ma ci ritorneremo probabilmente giovedì con Investire Informati. Noi invece torniamo domani, buona giornata.